Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Vino via di Trieste, potrebbe essere decisivo il verdetto del TAR regionale atteso in questi giorni. In corso l'udienza sui 5 ricorsi presentati dal cartello LIPU, WWF, Lega Ambiente e dai residenti a rischio esproprio. L'ultraleggero caduto in Valtorre nell'aprile del 2023, in cui persero la vita due persone, tra cui il capitano delle Frecce Tricolori. La procura di Udine ha chiesto l'archiviazione per l'inchiesta. Sopralluogo al grande cantiere dell'ex fiera Pordenone, dove sta sorgendo il nuovo centro sportivo comunale finanziato con fondi PNRR. Sarà pronto dal 2027. La Blue Economy e le opportunità offerte dal turismo diportistico analizzate dalla Camera di Commercio Venezia Giulia e da Union Trasporti, guardando alle sfide della transizione ecologica. Oggi la presentazione delle strategie per Trieste e Monfalcone. Graduation Day nel cuore di Trieste ieri sera per 170 nuovi dottori di ricerca, il numero più alto nella storia dell'Università di Trieste, con un più 28% rispetto all'anno precedente. Riduzione dell'anidride carbonica in atmosfera, un nuovo modello per valutare la stabilità degli idrati di CO2. Lo studio dell'OGS di Trieste apre la strada allo sviluppo di nuove strategie per ridurre la concentrazione di gas serra in atmosfera. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Dario Ronzoni e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. E ancora in corso, proprio in questi minuti, l'udienza al TAR del Friuli Venezia Giulia in Piazza Unità a Trieste sui 5 ricorsi presentati da associazioni ambientaliste e civiche contro il progetto di realizzazione della cabinovia tra la città e il Carso. Sentiamo. 5 ricorsi pendenti al TAR del Friuli Venezia Giulia, come 5 sono gli anni trascorsi da quando per la prima volta nel 2020 si ipotizzò di costruire una cabinovia metropolitana a Trieste per collegare il Molo IV con l'abitato di Opicina, via Bovedo. Il giudice amministrativo questa mattina sente le parti, da un lato i ricorrenti, cioè le associazioni ambientaliste Legambiente, WWF, LIPU e il Comitato di Cittadini Novo Via, dall'altro Comune, Regione e Avvocatura dello Stato. Due i possibili esiti: un rinvio della decisione da parte del TAR, che consentirebbe ai progettisti di prendere ancora tempo, o la volontà di andare a sentenza, emessa di norma entro 30 giorni, che però, visto il break agostano, potrebbe voler dire attendere fino a settembre. Un accoglimento anche solo parziale dei ricorsi potrebbe comunque compromettere fortemente il quadro della situazione e imporre uno stop all'iter progettuale, proprio mentre il Consiglio Comunale da settimane ha intrapreso la discussione in aula delle oltre 3.000 osservazioni pervenute in merito alla variante al piano regolatore, il cosiddetto accesso nord, avendone finora esaminate peraltro solo una minima parte. Già lo scorso dicembre il cartello di associazioni civiche e ambientaliste contrarie alla cabinovia aveva segnato un punto a proprio favore col TAR, che aveva annullato la concessione indetta dalla regione per l'impianto a fune, senza che l'infrastruttura fosse, allora come oggi, contemplata nel piano regolatore cittadino. E tutto questo senza contare che sul progetto pende poi un sesto ricorso, questa volta presentato al TAR del Lazio a Roma, contro il decreto adottato dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti di espungere la cabinovia dai progetti PNRR per finanziarla con fondi appunto ministeriali. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La procura di Udine ha chiesto l'archiviazione per l'inchiesta sulla caduta dell'ultraleggero avvenuta 2 anni fa, in cui persero la vita 2 persone, tra cui il pilota delle Frecce Tricolori Alessio Gersi. Per il PM mancano gli elementi di prova per stabilire le eventuali responsabilità penali. Oltre 2 anni di indagini e perizie dallo schianto dell'ultraleggero con a bordo il pilota delle Frecce Tricolori Alessio Gersi e un suo parente, Sante Ciaccia, il 29 aprile 2023. Alla fine, però, la procura di Udine si è vista costretta a chiedere l'archiviazione. Impossibile stabilire per gli inquirenti cause e responsabilità del sinistro. Troppo compromessi dall'incendio i resti del Pioneer 300. Niente scatola nera, distrutti carburatori e sistema di accensione. Indimostrato e indimostrabile un malfunzionamento del propulsore. Niente di irregolare riscontrato sulla pompa idraulica. Avvocato Maurizio Miculan, legale difensore della vedova Gersi. A fronte di questa situazione non impugneremo la richiesta del pubblico ministero, anche perché è stata espressamente riconosciuta l'eccellente stato di servizio e la comprovata esperienza del pilota. Il velivolo ha impattato gli alberi dopo uno stallo provocato dalla bassa velocità, ma non ci sono elementi sufficienti per approfondire le cause di questa bassa velocità. Niente fa ipotizzare manovre non autorizzate da parte del pilota. L'ultraleggero era a disposizione di 13 piloti delle Frecce Tricolori in contratto di comodato gratuito. Gli stessi tenevano i registri di volo, curavano la conservazione del velivolo e comunicavano le scadenze della manutenzione. L'ultima è effettuata nell'ottobre 2021. Neanche l'avvocato della famiglia Ciaccia, Giuseppe Sardano, farà opposizione in sede penale, ma si attiverà per il risarcimento del danno in sede civile. Impossibile svolgere ulteriori accertamenti, scrive il pubblico ministero Giorgio Melillo nella richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari. Erano indagati il legale rappresentante della casa costruttrice, la pordenonese Alpi Aviation, la proprietaria del velivolo e suo marito, contitolare dell'azienda. Bruno Malattia, legale degli indagati. Il pubblico ministero ha svolto delle indagini molto accurate, si è preso tutto il tempo necessario ed è emerso che il velivolo non aveva alcun difetto. E allora l'incidente si è verificato per ragioni che non dipendono e non coinvolgono la responsabilità dei miei assistiti. Non possiamo che compiacerci di questo esito. In Alta Valtorre resta il monumento a ricordo di Gersi e Ciaccia. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno, poco nuvoloso su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 27 gradi, il mare poco mosso con una temperatura di 26 gradi, a Udine Gorizia 29, a Pordenone 26, a Tolmezzo 24, a Tarvisio 22, a Forni di Sopra 23, a Piancavallo 21, a Sappada 18, sul Monte Lussari 17 gradi, sul Monte Zoncolan 18, a Grado e a Lignano 26 gradi con una temperatura del mare di 25 gradi. Le previsioni per oggi: nel pomeriggio avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso, venti deboli a regime di brezza. A Pordenone il comune ha compiuto un sopralluogo al grande cantiere dell'ex fiera, dove sta sorgendo il nuovo centro sportivo comunale finanziato con fondi del PNRR. Secondo il programma, la nuova struttura sarà pronta dal 2027. Sarà operativo dalla stagione sportiva 2027-2028 il Polo Young, il nuovo centro sportivo che sta sorgendo al posto dell'ex fiera in via Molinari, voluto dal comune di Pordenone e finanziato con fondi PNRR. I ritardi iniziali dovuti al ricorso al TAR e alla bonifica dell'amianto rinvenuto sulla vecchia copertura sono stati sostanzialmente recuperati, spiega l'assessora Diomede, oggi in sopralluogo al cantiere con la collega Ceolin. Lidia Diomede, assessora all'urbanismo. Stiamo rispettando il cronoprogramma, quindi confidiamo, diciamo, di poter completare l'opera e collaudarla entro l'estate del 2026. Stanno crescendo, diciamo, in elevazione, hanno già realizzato i solai tra il piano terra e il primo piano e si stanno portando al secondo piano, dove poi manca l'ultimo con i campetti sul tetto. Un'opera complessa che però man mano prende forma. In autunno saranno convocate le associazioni per la gestione degli spazi. Si valuta l'assegnazione a un soggetto unico che coordini le varie realtà e gli spazi comuni. Elena Ceolin, assessora allo sport. Partirà presto un tavolo già in autunno proprio per vedere come affidare la gestione, come assegnare questi diversi spazi. Puntiamo insieme alla collega Diomede alla stagione 2027-2028. L'impianto prevede spazi per la pratica sportiva al chiuso e all'aperto. Stefano Pugliatti, progettista. Abbiamo costruito una struttura, diciamo, sospesa, in modo da lasciare molto spazio libero al piano terreno, spazio libero per la città, una parte urbana che però oggi diventerà fruibile per lo sport piuttosto che per il gioco degli scacchi, del ping pong o altre cose, coperta. Per cui ci saranno campi coperti al piano terreno e invece sopra ci saranno tutte le palestre. E sui contestati campi da basket esterni al secondo piano? Ci sarà una polemica sul fatto che a mezzogiorno di agosto non ci si potrà giocare, ma vi garantisco che ci saranno altri spazi al piano terreno in cui potranno giocare all'ombra e in un posto molto fresco. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il turismo della cosiddetta Blue Economy, cioè legato al mare, è al centro di un incontro alla Camera di Commercio Venezia Giulia a Trieste per analizzare le opportunità del distretto econautico. Sesto per numero di posti barca, ma al primo posto per densità, con un'economia del mare che nel 2022 valeva 2,7 miliardi di euro. Ma anche con tariffe di ormeggio più elevate rispetto ai porti concorrenti e meno servizi. È il quadro del distretto econautico del Friuli Venezia Giulia, secondo uno studio della Camera di Commercio Venezia Giulia e Union Trasporti. Per Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio, non c'è uno spazio per i mega yacht per le barche oltre i 30 metri per cui vanno nella costa croata o montenegrina. Bisogna dunque attrezzarsi con l'idea di nuove marine che saranno in Porto Vivo e attrezzare queste marine per accogliere i mega yacht dando molti servizi e assistenza a tutto tondo. Per aumentare la competitività è necessario riequilibrare le tariffe di ormeggio, potenziare i servizi di lusso, migliorare le infrastrutture di refitting e manutenzione e sviluppare una strategia di marketing internazionale per attrarre mega yacht e turisti di alta gamma. Per Antonello Fontanili, direttore Union Trasporti, sul territorio ci sono grandi cantieri e di conseguenza occorre cogliere tutte le opportunità. Fare un'importante azione di marketing, ma soprattutto ridurre le tariffe di rimessaggio, poco competitive rispetto ad altri paesi della costa adriatica e anche ad alcune regioni italiane. Il distretto econautico del Friuli Venezia Giulia si propone come risposta alle sfide della transizione ecologica puntando su materiali ecocompatibili, refitting sostenibile e infrastrutture per la nautica verde. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. La quinta commissione regionale, che annovera tra le sue competenze la programmazione culturale e il finanziamento di progettualità specifiche, ha incontrato oggi la giunta comunale di Gorizia per un confronto sulle iniziative intraprese nell'ambito della capitale europea della cultura. A 5 mesi dalla partenza, il viaggio della capitale europea della cultura è giunto a metà percorso e la quinta commissione regionale chiede conto al sindaco di Gorizia e alla sua giunta sull'utilizzo dei finanziamenti PNRR statali e regionali e sulla programmazione per i prossimi 5 mesi. Nella sua disamina il sindaco Ziberna ha evidenziato innanzitutto l'ampio restyling urbanistico su alcune aree nodali della città come la Casa Rossa, la Transalpina e Borgo Castello. Siamo a metà dell'anno della Capitale Europea della Cultura e il mio desiderio è perciò quello di far toccare con mano, illustrare ai componenti, al Presidente e altre stakeholder, come vengono chiamati, il grandissimo numero di investimenti con cui stiamo letteralmente trasformando l'immagine della nostra città, consapevoli che ogni investimento, ogni risorsa è destinata non già solo per il 2025 Capitale Europea, ma anche e soprattutto dal 1 gennaio del 2026. Sentiamo ora il Presidente della Quinta Commissione regionale Diego Bernardis. Abbiamo visto come i progetti sono stati già molto partecipati e come da qui alla fine dell'anno ci sono varie progettualità che calcheranno grandi eventi, grandi mostre e sicuramente anche delle opportunità per il proseguio, perché l'obiettivo è quello di dare continuità e quindi di dare nuovo impulso culturale, storico, artistico alla città di Gorizia, ma anche e soprattutto in chiave regionale, in chiave turistica e promozionale per gli anni a venire. Per l'opposizione nel Consiglio Comunale di Gorizia, Laura Fasiolo del Partito Democratico. Gorizia ha bisogno sì di impresa culturale, ma ha bisogno anche di impresa, nel senso che devono procedere alcuni progetti che sono rimasti bloccati. Non sappiamo che fine farà il progetto di sviluppo della SDAG per la questione dell'H4 in Slovenia. E abbiamo il problema dell'aeroporto, si può proprio dire, non decollato, perché ridimensionato a campo volo. Abbiamo il problema del castello e dell'ascensore, ma questo ascensore quanti anni dovremmo aspettare ancora? Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Sebastiano Badin, segretario di Sinistra Italiana del Friuli Venezia Giulia, e Andrea Di Lenardo, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra Possibile a Udine, rendono noto che è stata depositata l'interrogazione parlamentare a prima firma della senatrice Ilaria Cucchi di Aviese sulla partecipazione del prefetto di Udine, Domenico Lione, e del questore, Domenico Farinacci, a un'iniziativa di partito di Fratelli d'Italia a Legnano Sabbiadoro lo scorso 4 luglio. L'interrogazione della senatrice Cucchi, dichiara Badin, sollevata solleva interrogativi importanti su come possa conciliarsi la presenza di autorità istituzionali a un evento di partito con i principi costituzionali di imparzialità. Sollecitiamo prefetto e questore a chiarire se questa rappresenti una nuova condotta di comportamento. A quasi 6 anni dal crollo della piscina terapeutica a Trieste, i consiglieri PD della quarta circoscrizione tornano a chiedere chiarezza sull'iter per la sua ricostruzione. Dopo l'approvazione delle ultime delibere di giunta e la variazione di bilancio da 5 milioni e 600 mila euro. L'interrogazione presentata chiede informazioni dettagliate sui servizi riabilitativi che saranno garantiti, sulla percentuale di spazi dedicati alla terapia e sul cronoprogramma dei lavori. Centrale anche il tema dei costi per l'utenza. È un tema che riguarda la salute e la qualità di vita di centinaia di persone fragili. È inaccettabile che dopo quasi 6 anni non sapere ancora quando potremo avere una piscina pienamente operativa con servizi all'altezza e prezzi accessibili. Lo sottolinea la consigliera Marina Corricciati, prima firmataria dell'interrogazione e della mozione approvata dalla quarta circoscrizione, che chiedeva esplicitamente la garanzia di prezzi calmierati. Per la prima volta una cerimonia accademica si è svolta nel cuore di Trieste. Il tradizionale lancio del tocco è stato un evento pensato e rivolto anche alla città. Ieri sera il Graduation Day ha celebrato i nuovi dottori di ricerca dell'Università di Trieste in Piazza Verdi, in una serata tra divulgazione scientifica e intermezzi musicali. Un format inedito pensato per far conoscere al pubblico di Trieste Estate il traguardo più alto del percorso universitario, valorizzare le eccellenze del sistema formativo e raccontare l'importanza della ricerca per il futuro della società. La cerimonia ha rappresentato anche l'ultimo evento istituzionale pubblico del rettore Roberto Di Lenarda, il cui mandato si concluderà il 31 luglio. Lectio Magistralis affidata a Rosario Rizzuto, già rettore dell'Università di Padova e oggi presidente del Centro Nazionale per la Terapia Genica e i Farmaci con Tecnologia RNA, una delle infrastrutture strategiche del PNRR promossa dal MUR. Il suo intervento ha offerto uno sguardo sulle sfide e sulle potenzialità di una rivoluzione biotecnologica che sta trasformando la medicina contemporanea. Al centro della riflessione la necessità di accelerare il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica verso l'applicazione clinica, puntando su nuove piattaforme in grado di sviluppare farmaci innovativi basati su RNA e trattamenti di terapia genica, capaci di offrire cure più mirate, efficaci e personalizzate. Una prospettiva che richiederà forti investimenti nella ricerca, nella collaborazione interdisciplinare e nell'innovazione industriale per rendere la medicina personalizzata sempre più avanzata, sostenibile e accessibile. I 170 nuovi dottori di ricerca, il numero più alto nella storia dell'Università di Trieste, con un più 28 rispetto all'anno precedente. È stato pubblicato sulla rivista internazionale Scientific Reports un nuovo studio realizzato da 2 ricercatrici dell'OGS di Trieste che modella la stabilità degli idrati di metano e di anidride carbonica nei sedimenti marini. La ricerca apre la strada allo sviluppo di nuove strategie per ridurre la concentrazione di gas serra in atmosfera, in particolare quella di anidride carbonica. Lo studio propone infatti per la prima volta un modello su scala globale per individuare le aree dove è possibile la formazione nei sedimenti marini di idrati stabili di anidride carbonica, strutture cristalline simili al ghiaccio in cui le molecole di gas restano intrappolate all'interno di un reticolo di acqua congelata. Questi composti stanno suscitando crescente interesse per il loro potenziale ruolo nella mitigazione del cambiamento climatico come possibile soluzione naturale per lo stoccaggio a lungo termine della CO2. Sappiamo che gli idrati di gas naturali, principalmente di metano, costituiscono la più vasta riserva di gas del pianeta e si stima che il carbonio organico stoccato negli idrati sia il doppio di quello estraibile da tutte le fonti fossili disponibili. Lo spiega Michela Giustiniani, ricercatrice dell'OGS, chiarendo che i depositi di idrati di gas naturali sono oggetto di studio da decenni per comprendere il loro potenziale come risorsa energetica e il loro impatto sull'ambiente. Questo lavoro rappresenta un passo importante nella comprensione dei processi di formazione degli idrati di CO2 al di sotto dei fondali oceanici, spiega Umberta Tinivella, ricercatrice dell'OGS e prima autrice dello studio. Con questi approcci si otterrebbero sia vantaggi energetici, estrazione del metano dagli idrati naturali, che benefici ambientali, riduzione delle emissioni di CO2 nell'atmosfera, in linea con le richieste legate alla transizione energetica e alla neutralità climatica, precisa Tinivella. La LAV, la Lega Antivivisezione, torna attiva a Udine e in provincia. Dopo anni ha riaperto la sede di Udine, che ha dato il via alle sue attività lo scorso aprile con la proiezione presso il Cinema Visionario del documentario della LAV sulle violenze dei circhi con gli animali, dal titolo L'ultimo spettacolo, una battaglia legale senza precedenti, la storia della più grande liberazione di animali da un circo in Italia, un film di Andrea Morabito. La prossima iniziativa, dal titolo Il mare e la loro casa, lasciamoli liberi, si svolgerà a Lignano Sabbiadoro, ospiti del Beach Village. Sarà presente anche in questa occasione, questo pomeriggio, un tavolo informativo dalle 16 alle 18 con cappellini e magliette per i più piccoli, una cartolina gioco e un piccolo libricino per conoscere e dare voce ai piccoli abitanti del mare, granchi, paguri e pesci, e sensibilizzare al rispetto dell'ambiente marino. Presente anche la Capitaneria di Porto. Ora gli spettacoli. Paolo Fresu e Omar Sosa sono stati i protagonisti ieri sera della terza giornata del Festival Udine Jazz. Si sono esibiti con Food, un progetto originale che intreccia musica con suoni registrati in cucine e in cantine. Questa sera alle 21.30 in Castello a Udine, l'attesissimo concerto del 6 volte vincitore dei Grammy, Jacob Collier. La magia della tromba di Paolo Fresu, l'energia ritmica e la sapienza armonica di Omar Sosa, ingredienti perfetti per una serata di jazz incantevole sul palco del Castello di Udine. Il trombettista sardo, ospite frequente e amatissimo dei palcoscenici regionali, insieme al pianista cubano, ha presentato Food nel senso di cibo, un progetto originale che intreccia musica e suoni quotidiani a partire appunto da quelli registrati in cucine e cantine. In precedenza, in corte Morpurgo, era stato invece l'Organ Madness Trio ad aprire la giornata del festival. Daniele Dagaro ai sassofoni, Mauro Costantini alle tastiere e Uti Gandhi alla batteria hanno presentato un programma che alternava le composizioni del tastierista agli standard di Duke Ellington e di altri grandi del jazz. Stasera, in Castello, tocca a Jacob Collier, il cantautore britannico premiato 6 volte con il Grammy. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Per questa edizione è tutto. In redazione ha collaborato Edoardo Veglia, per la parte tecnica in regia Roberto Cavallari e Bruno Montevecchi. Da parte di Dario Ronzoni ed Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione, vi auguriamo un buon pomeriggio. Prossimo giornale radio in onda alle 15. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.